La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 52 secondi, in diretta qui da Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, che ho cioè radio24.it, e vi invita a telefonare una volta preso subito adesso l'argomento della puntata. Il numero è 800 24 0024, per le opinioni 349 238 6666. Vi dico subito che parliamo di tutti i docenti universitari. E ci poniamo un problema che deriva da una protesta che viene da migliaia e migliaia di loro, una protesta che a me sembra fondata e che però sui media non ha avuto praticamente né grandi né piccoli echi, quasi nessuno se n'è accorto, probabilmente anche per il modo che loro hanno fin qui deciso di dare a una loro protesta fatta di alcune lettere, interventi sulla stampa, ma insomma niente di eclatante. È ovvio che nel grande rumore del confronto pubblico italiano, fatto di urla, grida, richieste ultimative, eccetera, eccetera, chi si misura, per così dire, poi corre il rischio, di cui è consapevole, perché stiamo parlando di persone, insomma, consapevoli, di non essere notato. Però il punto è questo, quindi telefonateci se rientrate nella categoria professori universitari, ma anche se non lo siete e siete comunque dipendenti del pubblico impiego, perché mi interessa anche la vostra di opinione su questo tema delicato. Abbiamo un ospite che adesso vi presento e ci spiega la ragione di questa protesta. Detta in due parole, per consentirvi intanto di decidere se intervenire in diretta, chiamando l'800 24 00 24, si tratta di questo. Ricordate che nell'anno alle nostre spalle gli anni di blocco della retribuzione, oltre che del turnover, ma della retribuzione del pubblico impiego, queste due misure, degli aumenti retributivi stoppati i rinnovi contrattuali e il turnover, sono le due leve con cui dal 2011 in poi si è andata avanti per realizzare il fatto che i 164 miliardi di retribuzioni pubbliche complessivamente sul bilancio dello Stato fossero, di tutte le componenti della spesa pubblica, quella che si è fermata in termini reali, quindi in termini nominali, è diminuita nel tempo rispetto al progresso dell'inflazione. Non è avvenuto praticamente per nessuna altra voce che vi dicano della spesa pubblica nel nostro paese, che ha rallentato la crescita tendenziale in maniera molto significativa, questo è vero, e che ha visto peraltro poi un taglio reale solo della spesa per investimenti. Ma nella spesa corrente, questa delle retribuzioni al pubblico impiego, è avvenuta così. Ce ne siamo occupati più volte, perché poi è intervenuto nell'anno alle nostre spalle lo sblocco di questa misura, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale. Però che cosa avviene? Avviene che nel pubblico impiego, in realtà, a essere soggetti alla contrattualizzazione, cioè quella che dal 2001 è assimilata come la privatizzazione del rapporto di lavoro e che in realtà si riferisce solo alle modalità con cui si rinnovano i contratti, e per la parte pubblica è l'ARAN, l'autorità contrattuale, insieme ai sindacati del pubblico impiego. Però nella contrattualizzazione privata, nel nostro mondo pubblico, non rientrano in buona sostanza due grandi aggregati: militare, forze dell'ordine da una parte, e i professori universitari. Il problema qual è? Ecco, a fine della mia brevissima introduzione. Mentre lo sblocco che è avvenuto in generale per il pubblico impiego, le polemiche sono aperte poi come saranno i nuovi contratti, ma intanto lo sblocco degli aumenti retributivi per il pubblico impiego è avvenuto nel 2015, e mentre nella legge di stabilità il governo ha, poi con il Bataclan e quello che è successo a Parigi a fine anno, introdotto naturalmente anche le forze dell'ordine militare nella ripresa degli aumenti retributivi pubblici, i professori universitari invece loro no. Forse pochi di voi se ne saranno resi conto. La domanda è perché, e poi è giusto? Che senso ha? Ecco, questo è l'argomento della puntata di oggi, visto che a parole, e anche per questo governo, la formazione, la scuola, l'università, la cultura sono una delle bandiere. Addirittura abbiamo utilizziamo risorse pubbliche per un bonus ai 18 anni. Il presidente Cossiga ha più volte ripetuto: la scuola e la cultura sono una risposta identitaria che noi diamo anche alla minaccia del terrorismo e così via. Però intanto questa è la situazione. Cosa ne pensate? Pensate che sia giusto? Cos'è, una dimenticanza? Oppure per quale altra ragione è stato deciso così? Bisogna rimediare? Ecco, questi sono i temi su cui vorrei che voi interveniste. Devo dirvi la verità, anche soprattutto se c'è qualche studente universitario, per sentire la vostra voce rispetto ai vostri docenti. Abbiamo con noi, per spiegarci meglio la faccenda, un professore che è ordinario di motori termici per trazione al Politecnico della mia città, cioè Torino, che è stato tra coloro che hanno deciso a un certo punto di inoltrare lettere anche al Capo dello Stato, riprese da qualche giornale, per così dire, però non l'avete visto, insomma, nel grande vortice delle cronache e delle proteste. E però, professor Vincenzo Ferraro, Carlo Vincenzo Ferraro, grazie di aver accettato l'invito, e le cedo il microfono per spiegare meglio di che cosa si tratta, del perché, del per come, e voi che ragioni ve ne fate di tutto questo. Bene, io ringrazio per l'invito, saluto tutti gli ascoltatori. Bisogna premettere qualcosa. Tutto nasce nel 2010, in piena crisi finanziaria. Vengono bloccati per 3 anni tutti i contratti del pubblico impiego, gli stipendi dei professori universitari. Poi viene tutto procrastinato ancora di un anno, ancora il 2014, 4 anni complessivamente di blocco. Bisogna chiarire subito che noi per questi 4 anni non chiediamo indietro nulla. Abbiamo contribuito al risanamento del paese, e per questi 4 anni non chiediamo assolutamente nulla. Dove interviene la novità? Il 1 gennaio 2015, e anche prima in alcuni casi, tutti gli altri dipendenti del pubblico impiego, contrattualizzati, non contrattualizzati, hanno avuto i loro stipendi sbloccati. E i professori universitari, ma anche tutti i docenti universitari, professori, certo, e ricercatori, certo, invece sono rimasti ancora bloccati. E già questo è un elemento di discriminazione che forse, anzi sicuramente, confligge con la pari dignità e il pari livello che è assicurato a tutti i cittadini dall'articolo 3 della Costituzione. È un problema a questo punto che non è più soltanto economico, è diventato a quel punto un problema di dignità. Tutti gli altri. Ma aspetti un secondo, ma come mai, secondo lei, visto che non so quanti anni di docenza abbia, però insomma, come mai quando anche poi arriva lo sblocco per militare forze dell'ordine, voi anche in quel caso restate fuori? Noi restiamo fuori e non si capisce perché. E qui adesso hanno sbloccato qualcosa, ma tutti i 5 anni pregressi, dal 2011 al 2014 più il 2015, sono persi definitivamente. Non esistono nella nostra carriera. Un periodo, dico spesso, di vero e proprio letargo, in cui noi ci addormentiamo, a 1 gennaio 2016 ci risvegliamo esattamente nella situazione in cui eravamo 5 anni prima, e ricominciamo la nostra progressione di carriera laddove l'avevamo lasciata 5 anni prima. E tutto questo, in un contesto in cui tutte le altre categorie del pubblico impiego vengono trattate in maniera diversa. È a questo punto che scatta il concetto di dignità e di ruolo che l'università riveste, perché se tutti gli altri vengono sbloccati dal 1 gennaio 2015 e noi continuiamo a essere sbloccati, arrivato al 2016 il pregresso, no? Tutto l'aspetto giuridico inerente ai 5 anni precedenti non ci viene riconosciuto, evidentemente si ritiene che la spesa per professori universitari, ricercatori universitari, docenti tutti, sia una spesa improduttiva che è bene tagliare. Per carità, il governo non dirà mai una cosa di questo genere assolutamente, ma è chiaro nell'opinione pubblica come si può insinuare il dubbio. Dato che sono spesa improduttiva, è giusto quasi tagliare i loro stipendi, e allora al danno anche le beffe. Allora facciamo, lei fa anche in uno scritto che ho in mano qualche esempio che serve a chi ci ascolta e non ha un'idea delle retribuzioni universitarie, magari pensa che siate coperti di denaro e non stiamo parlando, però aspetta, magari pensa, capisce che non stiamo parlando di stipendi che hanno a che fare con la media di quelle degli italiani, e dice vabbè, ma insomma i professori universitari di che si lamentano. Giannino, lei a un certo punto dice: facciamo l'esempio dei più giovani. Oggi un giovane ricercatore, giovane si fa per dire, perché stiamo parlando di persone, ricercatori che hanno 35-40 anni, quindi insomma sì, sono giovani con la definizione che oramai si adotta in questo singolare paese. Lei dice: dovrebbe prendere 1950 euro netti al mese, invece ne riceve 250 in meno. E dice denaro che non gliene è, che gli mancherà solo come gli manca in busta paga, ma pure nella liquidazione, nella pensione futura. Esattamente. Cioè diventa una condanna a vita, dice lei. Esatto. Ma io ci tengo a dire a chi ci ascolta che stiamo parlando di cifre in questo ordine, cioè non è che stiamo parlando di cifre stellari, ecco, per così dire. Eppure niente. Eppure niente. E faccio notare che noi non stiamo chiedendo aumenti di stipendio. Noi vorremmo né più né meno che quello che avremmo preso se quei 5 anni pregressi ci fossero riconosciuti solo a partire dal 1 gennaio 2015, perché ripeto, i 4 anni precedenti li abbiamo dati al paese, non li rivolgiamo assolutamente indietro, ma il 1 gennaio 2015 vogliamo essere trattati come tutti gli altri, altrimenti la nostra dignità ne viene pesantemente colpita. Ma io ne faccio un problema anche istituzionale, perché il problema non è soltanto nostro, il problema è dell'istituzione. Ci deve porre il problema: trattare i dipendenti, i docenti universitari in questo modo, li demotiva in maniera terribile. Per quanto si voglia resistere alle tentazioni, dopo aver lottato strenuamente per anni e anni per il progresso del paese, sarà fatale dallo stato di demotivazione che ne deriva una riduzione implicita, non voluta, dell'impegno, della volontà di agire. Ebbene, questo danno è un danno che l'istituzione sentirà, lo sentirà tra 5 anni, quando il danno sarà ormai fatto. Sarà difficilissimo, ci vorranno 10 anni per risalire questa china. E l'università italiana, io ho ribadito in tante sedi, l'ho scritto in tante occasioni al Presidente della Repubblica nei tempi più recenti, ma al governo 2 anni fa, l'università italiana è un'università di tutto rispetto, mi si permetta di dirlo, perché noi siamo all'ottavo posto al mondo come ricerca scientifica, e non lo diciamo noi in forma autoreferenziale, ce lo dice l'OCSE, ogni anno fa la sua classifica delle nazioni al mondo e ci classifica all'ottavo posto al mondo. I nostri laureati sono tanto apprezzati sia in Italia che all'estero. È merito loro, dico sempre io, della loro intelligenza, ma qualcosa ci avrà messo l'università italiana. Io, di conseguenza, questa università, che viene sempre così tanto bistrattata, merita un rispetto diverso, e il primo rispetto che le viene è di darle quel che le compete, non, ripeto, aumenti di stipendio, ma quello che le compete è che, del resto, niente di diverso da quello che però tutto il resto del pubblico impiego ha già ottenuto, cioè niente di quello che colpisce è questa singolare asimmetria. Ma le faccio una domanda fuori dai denti: non è che per caso siete molto meno sindacalizzati rispetto a tutto il resto del pubblico impiego? Perché io avrei detto di no, però certo, qui c'è un dato di fatto. Questo è pur vero, i sindacati esistono, ma sono tanti, numerosi, tendenzialmente con numeri piccoli, e il risultato, quando si è tanti e con numeri piccoli, che intorno a un tavolo ci sono troppe persone, ognuno ha le sue ragioni, e magari sono le ragioni di tutti, tutti condividono quello che gli altri stanno presentando, però si presentano frazionati. Adesso, per questo aspetto specifico, io spero che l'università si muova in modo unitario, perché è 2 anni ormai che io... Ma il governo, visto che poi io leggo che voi avete raccolto su questo appello 23.000 firme, cioè insomma, una parte molto rilevante del corpo accademico italiano, ma il governo vi ha mai ricevuti? Al governo direttamente abbiamo chiesto più volte di essere ricevuti. L'abbiamo chiesto per iscritto, l'abbiamo chiesto 2 anni fa, gli abbiamo indirizzato una lettera firmata allora da 10.000, solo 10.000 docenti, poi siamo cresciuti e come, 2 anni fa nel 2014 una lettera in piena legge di stabilità chiedendo di essere ricevuti e ci hanno ignorati. Siamo cioè nemmeno una risposta formale, nessuna risposta formale. Assolutamente, come se noi non esistessimo. Ma le posso fare una domanda? La conferenza dei rettori, la CRUI, non ha un livello anche di interlocuzione istituzionale con il MIUR, con il ministero, con il ministro in persona, tale da fare di questa, visto che sono passati mesi e mesi, sto più di un anno, tale da fare di questa questione una delle questioni, non voglio dire la fondamentale, certo. No, assolutamente, però una delle questioni da affrontare. Il MIUR, la conferenza dei rettori, almeno questo ambito di interlocuzione diretta ce l'ha. Questo è pur vero, noi siamo andati a trovare il 25 giugno dell'anno passato i rettori in quasi tutte le università d'Italia, abbiamo organizzato una giornata con un'ora ben precisa in cui tutti ci siamo presentati contemporaneamente ai rettori in 51 università, abbiamo avuto grandi promesse di intervento, però poi non si è visto nulla sostanzialmente, tranne un larvato apprezzamento per il fatto che si sbloccavano gli scatti nel modo minimale che dicevo prima, per cui il passato viene ignorato e finalmente si ricomincia a prendere qualcosa, forse, perché non tutti, alcuni prenderanno qualcosa in più tra due anni grazie a quello che c'è in legge di stabilità, figuriamoci quanta soddisfazione possa esserci in tutto questo. Ebbene, i rettori in quell'occasione promisero, ma non fecero moltissimo. In piena legge di stabilità noi eravamo in piena agitazione con livelli un po' più elevati rispetto ai toni pacati e felpati che avevamo usato precedentemente, ma i rettori non sono intervenuti. Pare che in questi giorni finalmente qualcosa si possa muovere, possano arrivare il nostro aiuto. Noi ne siamo contenti. Vediamo, no, però mai parlare della pelle dell'orso prima di averla. Detto questo, allora noi adesso abbiamo un minuto di informazione stradale, poi vediamo anche, vedo che c'è qualche telefonata, qualche opinione, e torniamo con il nostro ospite, il professor Carlo Ferraro del Politecnico di Torino. La versione di Oscar. Allora, torniamo in diretta su questa questione e lo sblocco degli scatti retributivi per tutto il resto del pubblico impiego dal 1 gennaio dell'anno scorso, professori universitari no. Perché? Abbiamo provato a porci la domanda, ci siamo fatti spiegare dal professor Carlo Vincenzo Ferraro, che insegna motori termici per trazione al Politecnico di Torino, e come vedete però la domanda è senza risposta, le richieste di interlocuzione con il governo, con organi istituzionali, zero, e quindi intanto vediamo come la pensate alcuni di voi. Dunque, ci sono un po' di messaggi, e lo immaginavo, che dicono, però insomma sono la parte che sta meglio, la totale del pubblico impiego, ancora uno sforzo. Insomma, però voi capite che quando la Corte Costituzionale è la prima a intervenire, non è che distingue tra figli e figliastri, per così dire. Quindi qui c'è un problema generale di articolo 2 e 3 della Costituzione. Però almeno questa è la mia impressione. Dopodiché ci sono molti messaggi di solidarietà. E per esempio sincera solidarietà ai docenti universitari, hanno contribuito in modo splendido alla mia formazione a Padova. Altri che si chiedono, ma ci spiegate un po' meglio, l'ospite ci spiega un po' meglio come funziona davvero la prestazione del lavoro di un professore universitario, meglio di un ricercatore, quante ore, come eccetera eccetera. Allora, questo lo mettiamo sul tavolo, poi facciamo rispondere Carlo Ferraro. Intanto vediamo anche qualche telefonata. Stefano da Brescia. Stefano. Sì, buonasera Giannino. Buonasera. Sì, senta, allora, io parlo non da docente universitario, ma da marito di una docente sì. universitaria. E praticamente è un'ingiustizia un discorso del genere, perché è stata l'unica categoria che non ha avuto aumenti retributivi per anzianità, in maniera differente certo, da tutte le categorie, da tutto il resto. I politici si sono aumentati gli stipendi, i magistrati si sono aumentati gli stipendi. I magistrati hanno fatto eccezione allo stop, perché hanno deliberato che lo stop alla retribuzione avrebbe rappresentato una minaccia alla serenità e all'indipendenza del senso della loro funzione. Io ho riso. Ma i docenti universitari invece la serenità dell'insegnamento, esatto. quella non conta nulla. Sono d'accordo con lei. Si rendono conto che i docenti universitari sono quelli che formano i giovani, sono quelli che danno l'impulso alla nazione. Stefano, dovrebbero, ma la mia domanda soprattutto deriva dal fatto che non capisco perché tutti gli altri siano. No, Stefano, ha detto la sua, però i minuti passano. Claudio da Piacenza. Buongiorno Giannino. Sì. La mia domanda era riferita appunto perché io proprio questa cosa non la so. Sì. Ma come funziona l'orario di lavoro di questi docenti? Quanto lavorano? Ad esempio, i professori delle scuole superiori, io sento sempre molto lamentarsi, ma lavorano 18 ore alla settimana. Con un paio d'ore di recupero fanno 20 ore alla settimana e prendono lo stipendio che un altro operaio prende lavorando 40 ore. Volte mi è toccato ogni anno dover spiegare che 18 ore di insegnamento frontale vanno poi integrate con la correzione dei compiti e le attività per gli organi, gli scrutini, eccetera, eccetera. Cioè, in realtà non sono 18 ore. Detto questo, ognuno è libero poi di dire sì, ma io lavoro di più, lavoro di meno, però chiediamo al professor Ferraro di risponderci. Sentiamo ancora Antonio da Avellino. Antonio. Sì, pronto Oscar? Sì, dica. Diciamo che sono d'accordo col professore sul discorso dell'aumento, diciamo. Sì. Però io lo legherei un po' i risultati, nel senso che non sono d'accordo col professore quando dice che siamo uno degli 8 paesi che ha un'istruzione universitaria e una ricerca, diciamo, all'avanguardia. Quelli sono i dati OCSE, poi come sa ci sono diversi ranking che stimano singola università per università, anche questo ce ne siamo più volte occupati, non è vero che il titolo di studio è uguale per dovunque conseguito, per esempio se parliamo di Politecnici, il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano sono il first best per il mercato in Italia e internazionalmente, perché sono molto ambiti gli ingegneri in alcune specializzazioni italiane, questo è un dato di fatto, stanno nel top ranking delle richieste delle imprese, nel placement delle imprese e così via. Però lei dice bisognerebbe legarli anche al risultato. Il risultato significherebbe anche per me, in un mondo pubblico che fa orientamento alle famiglie, che ogni singolo corso, facoltà e ateneo dovrebbe avere un portale in cui si pubblica a distanza di quanto tempo conseguiti i diplomi si ottiene un lavoro e la retribuzione media. Questo secondo me dovrebbe essere il grande sistema di orientamento pubblico della scuola, proprio per consentire alle famiglie e ai giovani di capire meglio dove si va e soprattutto qual è lo sbocco. Questo purtroppo in Italia non c'è, alcuni hanno iniziato a praticarlo, però non è la regola generale del nostro sistema. Allora, professor Ferraro, ha sentito, alcuni vogliono sapere in realtà quanto lavorate. Noi lavoriamo senza limiti di tempo, questo è il bello e nessuno ce lo riconosce, nel senso che io spesso e volentieri nella mia carriera accademica lavoravo, perché ormai sono in pensione da 3 mesi, ma continuo a lavorare ancora adesso di fatto, lavoro senza limiti di tempo, lavoro anche il sabato e la domenica all'occorrenza, e succedeva e succede tanto spesso, a me non ne voglio fare una questione personale, è una miriade di docenti universitari, perché c'è un senso dell'istituzione che dice lavorare quando è necessario, e se è necessario lavorare anche di sabato e di domenica, noi lavoriamo anche di sabato e di domenica, cosa che nessun'altra categoria fa, ma noi siamo per questo verso diversi dagli altri, nel senso che abbiamo la libertà di farlo e lo facciamo volentieri se ci vediamo riconosciuto quello che noi facciamo. Mi preme una questione di ultima che è stata detta, sì. La questione dei nostri aumenti retributivi. Sì. Noi siamo l'unica categoria del pubblico impiego in cui gli aumenti retributivi non sono automatici. Noi per avere i nostri avanzamenti di carriera siamo assoggettati, in base alla legge Gelmini recente ma mai, sì, applicata, a valutazioni ogni 3 anni. Siamo soggetti a valutazioni e solo se superiamo questa valutazione noi riusciamo ad avere i nostri aumenti stipendiali. Non esiste categoria del pubblico impiego in cui esista una irregimentazione di questo tipo. La valutazione impera da pazzi nell'università e noi ne siamo ben felici. Come dico spesso, vorremmo essere valutati domani mattina. Voi tra l'altro dovete anche adempiere a degli obblighi, dei questionari eccetera, per le valutazioni di qualità della ricerca, in base alle quali c'è una quota variabile del Fondo Nazionale Universitario, sì, che, sì, va alle singole università, ai singoli atenei, a seconda delle attività che voi svolgete e che dovete a quel punto anche attestare. Certo, ma bisogna valutare tutto, e valutiamo la nostra ricerca e valutiamo la nostra attività didattica organizzativa, come prevede la legge Gelmini, per, sì, carità, sì, sì. E ripeto, noi vorremmo questa legge immediatamente applicata. Però ma... ripeto, io a questo momento, oggi non stiamo parlando del salari di merito, perché io su quello ho un'opinione molto strutturata sul pubblico impiego, io spero che cambi davvero, ma stiamo parlando di questa roba, questo buco inesplicabile. Perché tutto il resto del pubblico impiego sì, i docenti universitari no? Governo, dai una risposta. Continuate intanto con Radio 24. 4. Grazie al professor Ferraro. Appuntamento con me alle 8:15 di mattina a Tantino 2 con Alessandro Milan.